Le elezioni europee, come noto, non contano un granché. Nella vasta famiglia delle competizioni elettorali hanno più o meno il ruolo dei parenti poveri. Non si collocano forse allo stesso livello di quelle per i consigli di zona, ma sono d'importanza certamente inferiore a quella di un sostanzioso turno amministrativo. Alle elezioni europee può succedere praticamente di tutto. Per esempio che le vinca il Partito Comunista, come mi sembra sia successo uno o due turni fa proprio qua in Italia, quando c'era un Partito Comunista, senza impressionare nessuno peraltro. Ed è abbastanza inevitabile, perché nonostante tutta la retorica europeista con cui da qualche decennio ci si sciacqua la bocca, non è necessario essere espertissimi di questioni internazionali per capire che i poteri del Parlamento di Strasburgo sono davvero pochini, e questa scarsa rilevanza non può che riflettersi sulle procedure e le scadenze della sua rielezione. È vero che per gli assatanati della politica resta sempre aperto il problema, diciamo, sportivo di chi vince e di chi perde. Ma in un Parlamento vince chi conquista la maggioranza, e a Strasburgo, non essendovi un esecutivo da sostenere o da combattere, né leggi da approvare o non approvare, poco importa quali maggioranze o minoranze si possano eventualmente formare. Se c'è una maggioranza adesso, sicuramente io non la conosco e magari non la conoscete neanche voi. Insomma, e quello che ci aspetta il 12 giugno è un voto che sul piano effettivo non cambia praticamente niente, tranne che forse dal punto di vista dei candidati, e specialmente di quelli che per un motivo o per l'altro si sentono orfani di un ruolo, delle prebende, dell'immunità che sul piano nazionale gli sono stati spietatamente negate. Ed è naturale che elettori e commentatori vi affrontino con una certa qual piccola rilassatezza, e anche se tra poco, ecco, se tra poco cominceranno tutti a spiegarvi che questa volta, data la durezza dei tempi, l'eccezionalità dello scontro, la posta in gioco è molto più importante di quanto non sembri ed è indispensabile mobilitarsi tutti fino all'ultimo uomo, farete bene a non crederci troppo. Tanto più che se vi specificheranno, come mi sembra stanno già cominciando a fare, che la necessità di affrontare un impegno così gravoso richiede, se non proprio una disciplina di ferro, almeno una certa compatta solidarietà, per cui, compagni, stringiamo le fila e non perdiamoci in polemiche improduttive sulle scelte che ci hanno portato al bel risultato del 27 marzo e sugli uomini che l'hanno voluto. Ma queste in fondo sono miserie. Il fatto è che ci vuole veramente uno sforzo supremo di buona volontà per vedere in questa scadenza, in questa scialbotta scadenza, un nuovo momento di scontro. I momenti di scontro per natura sono drammatici, e in quanto drammatici sono in qualche misura anormali. Invece, se c'è una cosa di cui siamo attualmente di fronte, è proprio una specie di ritorno alla normalità. Sbaglierò, ma a me questo sembra soprattutto il momento in cui, assorbito l'impatto del nuovo, ci si accorge che tutto sommato non è tanto diverso dal vecchio. Non è mica un caso se, come tante brave lumachine che dopo la pioggia tirano fuori i cornini dal guscio, fanno capolino qua e là dei soggetti politici che potevamo ragionevolmente supporre avviati a una rassegnata estinzione. Non so, il Partito Repubblicano dell'ex onorevole Lamalfa, il Partito Socialdemocratico dell'ex onorevole Vizzini, sono entrambi candidati alle elezioni europee. E non è un caso se a sinistra hanno prontamente archiviato ogni tentativo unitario, non che il polo progressista fosse granché poveretto, ma almeno era un'ipotesi su cui un certo numero di illusi aveva investito qualcosa. E ci si ripresenta tutti con le proprie bandierine, le proprie burocrazie, con tanto di segretario, portavoce, capolista in 5 circoscrizioni su 5, e dietro di loro in bell'ordine tutti i loro apparatini, senza neanche la pezza giustificativa di qualche outsider brillante o di qualche figura in grado di sfuggire all'omologazione generale. Capolista in 5 circoscrizioni su 5, come sappiamo tutti, si presenta anche il Berlusconi, come fanno peraltro i suoi discordi alleati. Spiriti pensosi hanno fatto osservare che candidarsi 5 volte a un seggio che, stando alle norme vigenti, non si potrà comunque occupare, non è proprio un grandissimo segno di serietà. Ma d'altronde non ci si può aspettare una grande serietà da uno che ha il coraggio di apparire in effigie su un postero a sfondo celeste con una coroncina di stelle piazzate proprio all'altezza della capoccia, appena un poco spostata di fianco, come se fosse la Madonna Pellegrina. Il problema è un altro. È il fatto che questi pretesi innovatori della politica, a un mese appena dal loro trionfo, stanno rivelando una tendenza ad appiattirsi su chi li ha preceduti, di cui nemmeno noi li avremmo creduti capace. E altro che Seconda Repubblica, in un mese questa nuova destra, prima ancora di arrivare a costituire un esecutivo, forse quando mi sentirete l'avranno già costituito, non credo, ci ha inflitto tutto un repertorio di gesti politici che più canonici di così non si può. Ci hanno promesso efficienza e managerialità, d'accordo, ma hanno esortito dimostrando la più totale indifferenza ai programmi, alle proprie promesse elettorali, un interesse quasi esclusivo per l'assegnazione dei posti di governo e no, con conseguenti risse fra alleati, moltiplicazione e o scissione di ministeri, minacce, ricattini, persino gli ammiccamenti all'opposizione. Tutto naturalmente nella fiducia istintiva che prevarrà la logica di schieramento su qualsiasi contraddizione interna, come ai bei tempi. E non parliamo delle genuflessioni alla Chiesa, delle campagne d'acquisto tra i gruppi concorrenti e di tutte quelle altre manifestazioni di marca un po' democristiana. È stato detto e ridetto che i ruggiti del nuovo padrone ricordano quelli del suo ex amico Bettino, se è ex, ma se state appena un po' attenti forse ci accorgerete che in essi risuona anche l'eco dei belati dei vari Forlani. E anche questo d'altronde è inevitabile. La distinzione tra ceto di governo e classe dirigente forse è meno precisa di quanto appare nella dottrina politica classica, ma nessuno può sostenere che un mese fa in Italia è cambiata la classe dirigente. Le elezioni, anche quelle importanti, sono solo elezioni, cioè momenti in gran parte formali, mentre il potere vero, almeno finché non glielo si toglie, resta in mano a chi detiene argomenti più solidi di una maggioranza parlamentare. Espressione delle stesse forze, degli stessi interessi, i governanti di oggi non possono che essere cloni di quelli di ieri, come del resto dimostra l'idillio sbocciato tra il leader della nuova maggioranza e quel vecchio navigatissimo arnese che è il presidente Scalfaro. Non è un caso se Berlusconi se lo tiene ben stretto. È un imprenditore. E come quegli imprenditori vecchio stile di cui si leggeva una volta sui libri di lettura per le elementari, anche lui ha imparato che non bisogna gettare via niente.